Fuori di noi, trasmissione sugli oratori e sul mondo giovanile, a cura di Noi Associazione e Blu Radio Veneto. Cari amici radioascoltatori, bentornati sulle frequenze di Blu Radio Veneto, ai microfoni Anna. Ciao Cristian. Ciao Anna. Allora, bentornata anzitutto. Abbiamo Grazie. Detto appunto che la scorsa settimana eri un po' malata, ma eri anche reduce di un viaggio. Allora, prima cosa, stai bene, in salute, ti vedo pimpante, ti vedo vivace, quindi immagino che la pausa di influenza sia passata e quindi sei pienamente in forma sì, per continuare sì, grazie, questo viaggio. Sì, adesso sto bene. Ma siccome siamo anche curiosi, io sono curioso, ti domando, ma dove sei stata di bello? Allora, io sono stata con la mia parrocchia in Polonia, 4 giorni. E cosa hai visitato di bello? Allora, siamo andati prima di tutto al santuario della Madonna Nera di Częstochowa, poi siamo andati a Cracovia, abbiamo visitato il Wawel e poi come ultimo giorno siamo stati ad Auschwitz e Birkenau. Allora, com'è stato? Sicuramente anche un viaggio un po' particolare, un po' speciale, diciamo, anche perché ci sono ricordi belli ma anche ricordi che molto molto, diciamo, dolorosi, ecco. Ti sei emozionata? C'è un'immagine che vuoi lasciarci a coronamento di questo, diciamo, viaggio che hai fatto in Polonia? Qualcosa che non dimenticherai mai? Sì, allora è stato veramente emozionante, beh, soprattutto insomma l'ultimo giorno quando siamo stati ai campi di concentramento, perché appunto quando si è lì veramente si può comprendere, ecco, per quanto comunque comprendere fino in fondo sia impossibile, però veramente si può capire più profondamente cosa queste persone, le atrocità a cui sono state costrette, ecco, a subire, e insomma è anche però la grande dignità di queste persone che hanno saputo affrontare veramente anche nella sofferenza, nella brutalità di quello che hanno subito, sempre a conservare intatta la loro profonda e grande umanità. Benissimo. E la gente polacca, che tipo di persone sono? Accoglienti? Hai trovato molta ospitalità, simpatia? Ovviamente quei pochi giorni che sei rimasta lì, come hai visto, diciamo, il popolo polacco? Sì, l'ho visto accogliente. Per esempio, noi siamo stati appunto ospitati, ecco, dalle suore missionarie, ecco, di Padre Kolbe, e comunque loro hanno origine italiana, però appunto, diciamo, sono state veramente gentili, calorose con noi, ci hanno proprio servito e riverito, nel senso, al massimo. E anche lì, insomma, c'è, secondo me, anche loro una profonda cristianità, quindi questo si respira, c'è proprio un intenso amore per Gesù, e questo è molto bello perché veramente si respira in tutti gli ambienti, ecco. Siete andati nella terra del beato Giovanni Paolo II di Karol Wojtyła. Hai avuto l'occasione di assaggiare qualche piatto tipico? Ti hanno offerto, diciamo, qualche loro specialità culinaria? Perché tante volte, appunto, andando nei paesi, appunto, all'estero, è bello anche immergersi nella cultura che si traduce anche con qualche bel piatto. Sì, però sì, abbiamo avuto un po' di disavventure in questo senso, perché non siamo riusciti il primo giorno a cambiare i soldi, quindi non abbiamo trovato da mangiare. Quindi un buon digiuno quaresimale. Sì. In anticipo l'avete fatto, complimenti. Esatto, perché essendo domenica i cantor, che sono appunto i botteghini dove vengono cambiati i soldi, erano chiusi e quindi nessuno accettava euro. Allora, diciamo, sì, in extremis siamo riusciti a mangiare, però un piatto direi altamente italiano, cioè cotoletta alla milanese e patate fritte, quindi. Ah, ecco, io invece vi immaginavo attraversare la via principale di Cracovia, eccetera, vedere tutte queste meravigliose pasticcerie e voi lì sognanti davanti alla vetrina. No, non è successo, insomma, alla fine avete mangiato l'unica cosa che all'italiana non... in Polonia. Esatto. Molto bene, ecco il classico turista italiano. Sì, l'unica cosa che abbiamo visto di polacco è stato tipo una zuppetta, un brodino, però non era molto accattivante, quindi forse la c'è buona andata cotoletta va bene, ecco, benissimo. Allora, abbiamo anche approfondito, abbiamo aperto una piccola finestra appunto in questo viaggio che la nostra Anna a cui la nostra Anna appunto ha partecipato. Il nostro viaggio però continua appunto ogni settimana e noi entriamo negli oratori, nei circoli padronati facenti parte della grande famiglia di Noi Associazione. Noi andiamo in onda quando, Anna? Allora, il sabato alle 14 e la domenica alle 12.30 su Blu Radio Veneto. Abbiamo sempre un'email a disposizione per mandarci domande e richieste o mandarci anche qualche bella fotografia dei vostri oratori. Sì, la mail è fuori di noi @libero.it. E se volete mandarci mandarci un SMS, magari con un saluto o un ringraziamento. Sì, potete scrivere al numero 320-6146-964. Come ogni puntata avremo un ospite che sentiremo nella seconda parte. Ringraziamo anzitutto Eddie Daici, che è la nostra regia, il nostro regista appunto, che ci accompagna in questa nostra avventura settimanale. Ringraziamo però anche l'associazione Noi Padova, Noi Treviso, Noi Venezia e tanti altri territoriali che insieme collaborano e rendono appunto questa puntata vivace, che cerca di andare anche oltre i confini appunto diocesani, cerca di avere anche un respiro a livello sociale e nazionale, perché quando si parla di giovani che si trovino a Roma, che si trovano a Venezia, che si trovano a Padova, hanno le stesse esigenze, le stesse problematiche, e noi come volontari all'interno di questi ambienti oratoriali cerchiamo di offrire loro, diciamo, una prospettiva diversa, un orizzonte diverso, fondato appunto sui valori evangelici, ma anche sui valori, diciamo, della convivenza pacifica tra generazioni, perché nei nostri oratori, l'abbiamo sentito tante volte, confluiscono sia giovani, bambini, che adulti, che anziani, e quindi le nostre proposte, le nostre attività targate appunto Noi Associazione si rivolgono a tutte le età, e questa è la sfida ed è anche il traguardo che vogliamo cercare di raggiungere, che cerchiamo di raccontare di settimana in settimana attraverso tante belle proposte, tante voci di persone che effettivamente danno il loro tempo, il loro contributo materiale all'interno di questi ambienti Noi. E adesso, Anna, io ho scelto una bellissima canzone, reduce appunto dal recente, dall'ultimissimo Festival di Sanremo. Ha colpito molto perché è stato, diciamo, una, come posso, un rinnovamento per questa artista, Arisa con La Notte. Non basta un raggio di sole, un cielo blu come il mare, perché mi porto un dolore che sale, si ferma sulle ginocchia che tremano, e so perché. E non arresta la corsa, lui non si vuole fermare, perché un dolore che sale fa male, ora allo stomaco, fegato, vomito, fingo, ma c'è. E quando arriva la notte e resto sola con me, la testa parte e va in giro in cerca dei suoi perché. Né vincitori né vinti, si esce sconfitti a metà. La vita può allontanarci, l'amore continuerà. Lo stomaco ha resistito anche se non vuol mangiare, ma c'è il dolore che sale fa male. Arriva al cuore, lo vuole picchiare più forte di me. Prosegue nella sua corsa, si prende quello che resta ed in un attimo esplode, mi scoppia la testa. Vorrebbe una risposta, ma in fondo risposta non c'è. Il sale scende dagli occhi, il sole adesso dov'è? Mentre il dolore sul foglio è seduto qui accanto a me, che le parole nell'aria sono parole a metà, ma queste sono già scritte e il tempo non passerà. Quando arriva la notte, e resto sola con me, la testa parte e va in giro in cerca dei suoi perché. Né vincitori né vinti, si esce sconfitti a metà, la vita può allontanarci, l'amore poi continuerà. Canzone molto delicata, molto bella, una grande voce che noi conoscevamo sotto un altro stile, sotto un altro punto di vista negli anni precedenti. Arisa appunto si è rivelata una nuova cantante, una grande interprete, soprattutto in questo Festival di Sanremo. Tu, Anna, hai seguito un po' il Festival di Sanremo? Ti piace oppure no? Sì, sì, l'ho seguito non tantissimo, però ho sentito delle belle canzoni. Dimmi, qual è la canzone che ti è piaciuta di più? Allora, a me è piaciuta più di tutte quella di Dolce Nera, anche se però non si è classificata molto avanti, comunque poi lì sono gusti, ecco, sì, opinioni poi differenti. Dipende dai dischi poi che venderanno. Comunque certamente Dolce Nera ti ha colpito? Sì, che cosa? La grinta ti piace? Sì, sei sempre molto grinta, molto entusiasmo nella voce, bravissima. C'è ultimamente l'andazzo, diciamo, di queste cantanti anche molto giovani di invece di partire, diciamo, sottovoce e poi aumentare subito, di partire con una grinta, cioè proprio sembra quasi una gara tra chi tra virgolette grida di più. Poi hanno anche delle belle voci, sì, perché Emma, Dolce Nera, sì, anche Noemi stessa, però sì. Ci sono certe che proprio in qualche maniera cercano di esagerare, quasi per far vedere che hanno veramente il controllo anche della loro voce e ovviamente le potenzialità. Parliamo di Noi Associazione, parliamo di un'associazione che ha centinaia di migliaia di tesserati, ma Noi Associazione non è presente solo nel Veneto, tanto per ricordare, ma è presente anche in Lombardia, dove si è costituito recentemente un comitato regionale, in Piemonte, in Valle d'Aosta, in Sicilia, in Campania, in Toscana, in Trentino, in Friuli, Venezia Giulia. Quindi è un'associazione a livello nazionale che può, diciamo, ricevere, e questo è importante ricordarlo sempre, anche dei contributi attraverso la destinazione del 5 per 1000. Nelle dichiarazioni dei redditi voi potete mettere la vostra, diciamo, firmetta e la crocetta come associazione di promozione sociale e appunto segnando il codice fiscale del circolo della vostra parrocchia. Il vostro circolo potrà ricevere la destinazione del 5 per 1000 che voi stessi date attraverso la dichiarazione dei redditi e i modelli appunto per denunciare appunto la vostra, il vostro patrimonio. Questo è assolutamente, bene dirlo, gratuito, però è importante ricordarsi di inserire il codice fiscale. Se non inserite il codice fiscale e fate solo la firma, ovviamente questi soldi non vanno al vostro circolo e vanno appunto dispersi in tante altre realtà. Ma noi adesso andiamo appunto partiamo con il cuore della trasmissione, che è l'intervista a Anna. Anna, noi adesso vediamo se abbiamo in collegamento, se si è sistemato appunto, se è pronto per rispondere alle nostre domande, uno dei consiglieri, ma è stato anche vicepresidente, insomma una delle figure, mi permetto di dire, storiche dell'associazione territoriale qui a Treviso. Vediamo se c'è. Attilio, ci sei? Sì, sono qua. Ciao, ecco. Anna. Ciao, ecco qua. Allora, Attilio, diceva appunto che è uno dei consiglieri di Noi Treviso, storicamente anche prima di Noi Treviso, quando era ANSPI. Correggimi tu, Attilio, se sto sbagliando. No, hai ragione. E quindi tu hai visto praticamente, Attilio, un po' anche il cammino che l'associazione territoriale, fin dagli inizi, diciamo, ha fatto. E adesso, appunto, dopo 10 anni, visto che quest'anno si festeggiano i 10 anni di Noi Treviso Associazione, hai visto anche i cambiamenti, diciamo, gli sforzi e le fatiche che una realtà così grande, perché oggi conta, almeno per quanto riguarda Treviso, circa 50.000 tesserati, ha fatto. È stato un cammino che tu hai vissuto in prima persona. Cosa puoi dire? Innanzitutto, come sei entrato a far parte dell'ANSPI e poi del Noi? Chi è che ti ha invitato? Come ti sei offerto? Io ho iniziato così nell'attività parrocchiale lì in parrocchia, quindi ho cominciato a formarmi lì, a capire come funzionava un circolo, l'aggregazione con i ragazzi, le animazioni. Poi c'era bisogno di persone nuove all'inizio anche per portare avanti quello che era l'attività provinciale, e quindi mi sono inserito nel consiglio e da lì abbiamo cominciato in tanti a lavorare, perché sono passate tantissime persone, ne ho conosciute tante, è stata un'esperienza veramente indimenticabile della mia vita. Sono uno con il consigliere Marcello Crivalerde, siamo rimasti gli unici di quella volta del là, gruppo dopo, storico del gruppo storico. Del gruppo storico sono passati penso ormai 18 anni, quindi è ora che anch'io un ventennio, insomma, vada in pensione. Comunque è stata un'esperienza bellissima, siamo passati attraverso le esperienze anche difficili dell'ANSPI Veneto, le difficoltà che si aveva a relazionarsi con la presidenza nazionale, poi c'è stata, come dire, questa trasformazione con il Noi, e da lì l'associazione è partita, è diventata veramente qualcosa di grande e di bello, insomma, le attività ci sono, i circoli sono vivi, insomma, basta poi conoscere le nostre attività, non c'è un periodo dell'anno in cui siamo fermi, ecco, questo è il merito che va dato comunque a tutti i consiglieri, a tutti coloro che hanno lavorato alla segreteria, a tutti, perché tutti hanno lavorato per far crescere questa associazione, insomma. Attilio, allora tu in questi 20 anni ti sei formato anche una famiglia, tu abiti, mi pare, a Mignagola di Carbonera, quindi hai dei figli, eccetera. La domanda che ti faccio è questa: ma chi te lo fa fare? Nel senso che è bello stare insieme, eccetera, ma perché proprio si può, diciamo, ancora gioire e ancora essere motivati, avere una certa passione quando si parla di oratorio? Tu dove la trovi, diciamo, questa energia per impegnarti anche oggi, dopo, come hai detto tu, 18 anni, sempre in questo campo e avendo appunto altre responsabilità, perché appunto nel corso degli anni la famiglia, il lavoro e tante altre cose ovviamente non ti mancheranno di certo. Guarda, io ho iniziato, devo essere sincero, a lavorare nel nostro circolo. Il nostro circolo fa 30 anni di attività. Io ero giovanissimo allora e ho cominciato più che a frequentare l'oratorio per frequentarlo, ho cominciato a lavorare nell'oratorio, ho cominciato a crescere e a credere nell'oratorio, nelle proposte che dava. E quindi è stata una parte integrante della mia vita, insomma. Quindi mi sono sempre trovato bene nel relazionarmi con le persone, nel dare delle risposte a, innanzitutto ai soci, ai circoli, alla parrocchia, comunque alle persone. Ecco, è importante che la gente creda in quello che fa e che sappia valorizzare il lavoro, insomma. Dopo tanti anni, ti dico, anche se affiora un po' di stanchezza, basta pensare a volte all'idea, alle cose nuove che si possono fare, che si squaglia subito e che quindi si va avanti verso nuove avventure. Il problema è che adesso con la famiglia, con il lavoro e con tutti gli impegni c'è meno tempo da dedicare. Questo mi dispiace moltissimo, perché io penso che vivere in una comunità, vivere in mezzo a tanta gente, poter dialogare, conoscere, sia una cosa importante, soprattutto di questi tempi, ecco. Allora, Attilio, ti chiedo una cosa. Tu all'interno però del Noi Treviso, raccontavo anche prima di iniziare la trasmissione anche ad Anna, che è ovviamente la mia compagna di viaggio, hai preso, diciamo, ti sei preso carico appunto di una delle attività, diciamo, anche molto importanti del Noi. Non è, diciamo, la principale, perché non facciamo concorrenza ad altre realtà che hanno come unico obiettivo questo, ma è quella della, diciamo, del settore dello sport. Cosa bolle, diciamo, in pentola in questo periodo per quanto riguarda Noi Treviso, e quindi cosa hai programmato, cosa stai portando avanti? Ma guarda, noi abbiamo, sono 11 anni che programmiamo tornei sportivi, così a livello amatoriale per i nostri circoli. Quest'anno abbiamo il calcio a 7 e il calcio a 5, sono già partiti questi tornei, sono tornei che hanno complessivamente un 26 squadre partecipanti. Quest'anno li abbiamo un attimino, diciamo, messo un po' di pepe, nel senso che abbiamo fatto sia il girone di andata e di ritorno, quindi sono tornei abbastanza lunghi dove le squadre si possono veramente divertire, giocare, e soprattutto dopo alla fine vediamo chi sarà la vincente, chi sarà quella che ha ancora birra in corpo per andare avanti e arrivare alla finale. Ecco, sono circa 400 iscritti che noi abbiamo così con questa attività, suddivisi con 19 squadre di calcio a 5 e 11 di calcio a 7. Nel calcio a 7 ci avvaliamo anche della collaborazione delle strutture sportive di alcuni oratori, sono quelli di Paese, di Pezzan di Strana, di Arcade e di Losson di Meolo, che naturalmente ringrazio, perché anche questi responsabili ci danno una forte mano per poter mandare avanti questi tornei. Ma come ti dicevo, sono tornei dove tutto viene deciso assieme, ecco, non è un torneo che ti calano dall'alto, è un torneo in cui ci confrontiamo per un paio di volte prima di iniziarlo, per capire cosa dobbiamo migliorare, cosa dobbiamo fare, e dopo partiamo, insomma. Quindi fino a maggio avremo questi tornei. E ecco. Attilio, quando è che è nata la tua passione per lo sport? Beh, io da giovanissimo ho sempre fatto sport e mi piace tantissimo vivere il mondo dello sport. Purtroppo, cosa vuoi, oggi è difficile parlare di sport, perché più che di sport vero parliamo di polemiche sportive, parliamo di fatti che non hanno niente a che vedere con lo sport. Io penso che lo sport, se vissuto, come dire, in maniera serena, sia qualcosa che aiuta a far maturare e a far crescere la persona. Tant'è che anch'io nei nostri tornei, negli anni passati, abbiamo avuto qualcuno che voleva che facessimo dei tornei più per professionisti, tra virgolette, per gente che sapeva giocare. La nostra caratteristica è che tutti i ragazzi che partecipano a questi tornei non possono essere ragazzi tesserati con la federazione, quindi sono tutta gente che o gioca per passione o si ritrova all'oratorio a dare due calci al pallone e da qui dopo si va avanti. Quindi c'è anche nel nostro piccolo abbiamo questo confronto di ragazzi che giocano per divertirsi. È un po' lo spirito, insomma, che noi crediamo in questo spirito, che si possa crescere e maturare all'interno di un progetto proprio di crescita umana e cristiana. Certo. E il tuo sport preferito qual è? Ma guarda, io sono un amante del calcio, però non disdico nessun sport, dalla pallavolo al calcio, al ciclismo, mi piacciono tutti perché mi piace vedere l'atleta che fatica per arrivare a un risultato. È un po' una metafora della vita questa, quindi con la fatica si può raggiungere qualsiasi risultato. Ecco, poi anche se uno non è un professionista, basta che si misuri con se stesso e questa è la vittoria, secondo me, più importante. Certo, sicuramente. E se, diciamo, tu che hai maturato anni e anni di esperienza, quali sono, ecco, le principali difficoltà che tu hai incontrato in questo tuo cammino? Nell'organizzazione, sì, per esempio, di questi tornei, di queste attività sportive? Guarda, quando siamo partiti, devo dirti, 11 anni fa, non sapevo neanche io che realtà trovavo negli oratori. Allora sono partito in punta di piedi, piano piano, cercando di capire come dovevo muovermi, perché era una realtà così nuova. Io conoscevo l'ambiente della federazione e sapevo come funzionava, ma questo qui, e quindi sono partito piano piano e partendo con un piccolo regolamento, senza grandi cose, e poi nel corso degli anni l'abbiamo fatto crescere. Sono le squadre oramai che sono partite all'inizio, ce ne sono alcune che sono rimaste sempre con noi, si divertono perché c'è proprio uno spirito, noto a volte uno spirito. Poi abbiamo dato un taglio anche guardando più che altro allo spirito che non al risultato finale, tant'è che a parità di punti passano i turni successivi coloro che hanno una miglior classifica disciplina, quindi vuol dire guardiamo il comportamento del campo. Ecco, son queste cose che poi ci hanno permesso di dare anche un taglio nuovo al torneo, ecco. Benissimo, Anna. Attilio non l'ha detto, ma credo che gli ingredienti fondamentali per organizzare questo tipo di iniziative, così come in tutte le iniziative, sono le famose 2P: passione e pazienza. Quindi, Attilio, non so adesso se sei d'accordo con quello che ho detto, ma passione, ma ci vuole anche tanta pazienza, perché appunto mettere insieme tutte queste persone, tutte queste idee, eccetera, per poi appunto organizzare un progetto finale non è facile. Attilio, ci salutiamo, 30 secondi, quando saranno queste finali di queste due grandi tornei? Sono previste in che periodo? Ma guarda, sono previste i primi di maggio, adesso le date non te le so dire perché ma possiamo trovare sul sito, vero? Sì, le abbiamo sul sito, se andate a vedere il sito da noi le troviamo, perché abbiamo purtroppo il maltempo ci ha fatto slittare una settimana il calcio a 7, quindi dovremo posticipare di una settimana. E però a maggio finiamo Attilio, tutto, e vi aspettiamo a maggio ad assistere alle nostre finali. Assolutamente sì, quindi a livello nazionale la neve, e anche noi abbiamo avuto i nostri problemi meteorologici. Certo. Attilio, grazie e buon lavoro. Grazie a te, Cristian. Ciao Anna, e arrivederci a tutti i nostri ascoltatori. Ciao Attilio, e grazie mille. E dopo aver sentito appunto l'ospite di questa settimana, noi andiamo con un nuovo brano musicale datato ma sempre piacevole da riascoltare. Blondie con Maria. She moves like she don't care, smooth as silk, cool as air. Ooh, it makes you wanna cry. She doesn't know your name and your heart like a subway train. Ooh, it makes you wanna die. Ooh, don't you wanna take her? Cat! coming from the rain. She's oceans running down the drain, blue as ice and desire. Don't you wanna make her? Take her home. Siamo arrivati alla conclusione di questa ennesima puntata, vero Anna? Vero. Ma avremo una sorpresa già la prossima settimana, perché ritorneranno i nostri amici della C, che per qualche settimana hanno preso già un po' di ferie, ma ritorneranno con grinta, con passione, con tanta voglia di esserci all'interno di Fuori di Noi, con i loro contributi simpatici e con il loro, appunto, i loro racconti, le loro storie legate al mondo della C. Vero Anna? Sì, sì, vero. Bene, allora adesso dove andiamo? A prendere un caffè? Andiamo fuori insieme? Sì, e anche recuperare la macchina, che speriamo sia... Dove l'hai lasciata? Sopra un albero? No, no, no. Seminario, sono tranquilla rispetto all'altra volta, non rischio multa, quindi a posto. Speriamo, ecco, speriamo, perché ultimamente se ne sentono di tutti i colori. Comunque ringraziamo allora la regia di Eddie Daici, ci risentiamo sempre la prossima settimana, sempre il sabato alle 14, domenica alle 12.30. Potete riascoltare questa puntata sul sito www.bluradioveneto.it cliccando sul podcast programmi, e noi non ci rimane appunto che dire arrivederci alla prossima puntata di Fuori di Noi. Ciao Anna, ciao a tutti. Ciao Christian, ciao a tutti. Fuori di Noi, trasmissione sugli oratori e sul mondo giovanile, a cura di Noi Associazione e Blu Radio Veneto.